Lesson number one. Hi, Mike. Hi, John. How are you? I'm fine, thanks. And you? Oh, I'm very well. Okay. See you, Mike. Bye-bye, John. Lesson number two. Hi, Mike. What are you doing? I'm on holiday. Oh, you're a lucky man. Yes, I am. And you? What are you doing? I'm looking for a job. I'm looking for a job. The pen is on the table. The film is very funny. Today is a beautiful day. Your mother is dead. Oh, I am so desperate. I am so desperate. Wonderful. She is very cold. Lesson number four. Non lo so. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Veramente il mio progetto le è piaciuto. Oh, grazie. Sono una creativa. Un artista, sì, sì, sono un artista, codificami artista. Scrivo, cazzo se scrivo. Scrivo tutti i giorni. Ho studiato un sacco per scrivere, potrei anche insegnare, lo sa? Dove? Sì, Autunita. Legami affettivi, no. Figli, no, no, no, no, no. Se ho intenzione di farne, beh... No. No, no, no, no, no. Sì? Sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Sì. Flessibile. Autonoma. Sì, sì, sì. Sì? Sì, sì. Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Sì? Sì. Sì. Sì. Faccio le pulizie honoris causa. Il gergo in questo lavoro è fondamentale. Chi ti prenderebbe sul serio parlando di Nietzsche? Il cesso è ingorgato, arrivo subito, signora. Possibilità di crescita. Lavoro con i bambini. Sono malleabile. Dolce, simpatica, allegra. Mi vesto come una ragazzina. Ho 34 anni. Davvero non li dimostro. Lo so, lo so. È un fattore genetico. Mia nonna aveva le gambe di una tredicenne prima di morire. Sono compagna. Mi sento moglie. Un abito bianco, me lo ha detto. Ne ho visti tanti di abiti bianchi. Il mio me lo dirà se sono... Il prete ci lega. Moglie. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Allegra. Premurosa. Troia. Potenziale madre. Esprimo tutto il mio senso materno ad ogni carezza. Quando stendo i panni, quando lavo i piatti, quando mi tolgo i calli. Moglie. Sì, sì, sì, sì. Futura moglie. In attesa. Le faremo sapere. Anche per quello, mi farà sapere. Aspetto. Aspetto. Sono segretaria. Precisa, elegante, ubbidiente, veloce, velocissima. Leggo quasi nel pensiero, cordialmente, saluti, gentilissimo assessore, la chiave per conto di No, no, no, no, no, no, no. Io non sono, sono una rappresentanza, un rappresentante. Ti rappresento. Io ti rappresento al meglio. Sì. Sì. Sì, per un primo periodo. Per un primo periodo vanno bene 3 euro l'ora. Poi, sperando nel bonus. Io sono brillante, intraprendente, molto sveglia e socievole. Le pubbliche relazioni sono molto importanti in un'azienda. Io sono la casa che vorresti. Io sono la bibita che ti disseta. Io sono lo yogurt che ti fa cagare. Io sono le telefonate che vorresti non pagare. Io sono... Sono quella che ti fa godere, quella che ti fa palpitare. Io sono la persona seria che cambierà il futuro di questo paese. Sono l'artista, svanita di natura, lo si sa. Siamo disordinati, eclettica, sì sì. Allegra, triste, bipolare. Gli artisti lo sono, solitaria ma compagnona. Sono il male, la strega che ti fa scattare. Sono la manager, ti vendo anche tua madre? Sono la puttana che ti frega con l'euro in più, manco te ne sei accorto. Sono salutista, sportiva, grazie. Vado regolarmente a cagare. Cago benissimo. La prevenzione è tutto. Non bevo, non fumo, non faccio tardi la sera. Prendo delle tisane buonissime. Non mi lavo con lo shampoo. L'acqua purifica il corpo e il latte misto a olio di avena per la pelle. Mi rigenero. Calendula, adoro la calendula. Musica New Age tutte le sere, il suono del mare mi rilassa. Faccio yoga, faccio pilates, faccio meditazione, mi allungo come una big bubble. Sono aperta a nuove esperienze mistiche. Farò un viaggio in India. Voglio aiutare i bimbi del terzo mondo. Li aiuto portando loro cibi macrobiotici, biologici. Faccio workshop ecosostenibili e progetti in Africa. Bella l'Africa, eh? Quando verrai non vorresti più tornare. Lì la vita è più sana, come una volta. Farò un orto, i prodotti della terra, come mia nonna o la nonna di qualcuno. In balcone, sì, orti verticali cresciuti con aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia. Le piante ci sentono, le piante sentono l'amore. Io sono piena di amore, do amore a tutti. Sono la maestra dei tuoi figli, in mani sicure, dolcissima, una ragazza dolcissima, ma anche severa. Sì, sì, sì, sì, sì, severissima, io sono una suora quasi, io sono una suora. Prego lì Dio onnipotente tutti i santi giorni, sapeste quanto lo chiamo, io chiamo Dio, Dio, Dio, Dio, prega per noi peccatori e liberaci dal male, liberaci Dio, cazzo, amen. Mi farete sapere. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo. Dai, oggi il nostro pane quotidiano, rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Oh, ecco, mamma. Mamma. Mamma. Mamma! Mamma, stai sempre da sola, guarda che prima o poi, pure già, diventi matta. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro. Chi? Chi c'è? Chi sei qui? Mamma, non mettermi nonna. Mamma. La nonna. La nonna. Questo, la nonna. Parliamo di forza. Guardate la violenza che fa girare il mondo, la paura. Da piccolo io avevo paura, paura di non essere all'altezza. Oh. Allora in senso letterale, non so neanche adesso all'altezza. Mia madre mi interessava pochissimo, davvero pochissimo. Oh. Mia madre mi stringeva in realtà, mi diceva che era già fosse l'ultimo. Oh. Puzzava. Puzzava di tabacco, di sudore. In quelle giacche di sintetico che aveva alla fine della giornata, perché solo a quell'ora che volevo vederlo, mia madre urlava di lavoro. Mia madre no. Mia madre, lei urlava di fare. Fare quello che usa anche adesso per arrossirsi le guance, perché è un po' troppo in realtà, è proprio strano che dopo con le guance arrossite con quella meglio rimasta che si trova. Comunque lei odiava di farlo, di gettessimo per i piatti, di anche per i capelli, insomma. Anche lei a suo modo odiava di lei. No, io puzzo. Puzzo, basta. Puzzo di letto, di tabacco, saliva, rumo, coglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Mamma! Così in cielo. Mamma, mamma, che chiamo, non mi parla più! E non parli più con me! Anche te! Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi. Paura del buio, Nanna, mi accendi la luce. Mi accendi la luce, la porta giù. Nanna, mi accendi la porta giù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mamma mia. Io il giorno la luce la evito, Io la luce non cerco sempre di giorno, non faccio altro che aspettare che arrivi il buio, capito? Io quando non so come fare arrivare il buio, il buio è la cosa che mi serve, mi fa sentire giustificato, è la sola cosa che ne so, è come tutti quanti, capito? No. Come tutti, io il giorno guardo in pioggia, almeno due volte all'ora, e mi uccide lentamente come le mostre cattive, perché gli altri non erano cattivi, io ho fatto che cercare di evitare lo iatto orologio. Mi sveglio la mattina, vado a fare un'ora di corsetta, ma sono le 10 e mezza, vabbè, mi alzo come faccio di così, non chiedo solo le 10:35, vabbè, allora che faccio? Mando i curriculum, ecco gli annunci, arrivano i curriculum, ecco gli annunci, che c'erano delle minuti, che ne sono le 19, vabbè, allora sono le 19, ma per ancora 3 ore, mamma! Con nessuno. Nessuno. Chi mi cerca ormai? Chi mi vuole ormai? Chi mi parla ormai? Chi? Nessuno. Sola. Ma mi stai ascoltando, va? No. Allora. Ho trovato che dire, va bene. Ma pure che caro non mi parli più. Ad ora. Ma serve, con me, no, mi serve bene con te, non ho capito. Ma sei triste, stai pensando al passato. Ma cioè con me, serve bene con me. Io da te non me l'aspettavo. Tanto intelligente e poi fa ste sciocchezze. Uno gli dà l'educazione e poi guarda, eccolo là, guarda. Ma non volevo? Ma scusa, Rosa? Tutto, dotato, tutto. Ti amo, risposto. Hai trovato lavoro? Hai trovato lavoro o no? Allora? Mamma, ma sei arrabbiata? Mamma, ma mi odi, ma guarda che io sono... Ho paura di non andare a pensare con papà. Mamma, io ho paura di non pensare. Io ho paura di non pensare. Mamma. Ah. Sì, va bene. Mi faccio la doccia. Sì. Vabbè, sì. Come tutti sì, lo faccio oggi. Va bene. Ciao. Donna di gran classe, non è la parola d'ordine, e quindi come dicono neanche. Sì, tanto, tanto, comunico, tanto, tanto, tanto. Comunico, comunico. Io lo sento. Sì. Io lo sento, le labbra, oltre ad essere sensualizzate, hanno attenzione durante il colloquio. Sì. Sbagliate l'esaminatore non solo con le vostre parole, ma anche con me, con il sento rosso che si stanno in gran moda. Ma dimostrerete anche di stare sempre sul pezzo. Pezzo, pezzo, pezzo, pezzo, pezzo. E per finire, non sottovalutate il colorito roseo che sarà. Non presentatevi con quella faccia pallida, mi raccomando. Rosa, rosa, rosa. Che colore del mano di questo, dell'altro? Ma non era il mio rosa e blu. Rosa sulla faccia destra, un po' di rosa sulla faccia sinistra, lasciando in luce gli occhi e il labbro rosso in risalto. Rosa sulle guance e sorridete. Sorridete. Bene, siete pronte. Manipolatori, manipolatori di conflitti, mani di ferro, giocate a dama con i miei morti, manipolatori di pagliacci, incappucciati di colori stinti, rubate i miei sogni, senza parlare, mi offendete. Un giorno ho urlato: non mi sto chiudendo agli altri, mi sto aprendo a me stessa. Li avete sputato sul mio petto. Mostri pedinatori. Occhi fuori scena. Trapelate. Da false ricchezze. Gettate i doni dietro la maschera di un'arte immaginata da altri. Mi guardo nuda allo specchio. Ce la fai? Vero? Il mio pensiero errante esule dalle caverne di città parallele, celate da sordide questioni. Chiamo una bambina nascosta sotto al letto. Seguo un disegno antico, tracciato da mano inesperta, coperto dal fumo ammaliatore. Brucia. Il dito segna il percorso sullo specchio appannato di un bagno pubblico. Tra il pensiero di fare, mi concedo l'emozione di ciò che desidero. Sì, vabbè, è vero, verissimo. Lo ammetto. Non mi ho di fare un caso. Non ho fatto culo. Ipotizzandoti! Tutto il commercio si basi sullo scambio di beni il lavoro. La quantità di beni che un'azienda deve cedere in cambio di un'ora di lavoro si dice salario reale. Ma poiché il lavoro viene venduto in cambio di denaro e non di beni, assorbite i beni, considerato che tutto il profitto delle imprese facenti parte dell'economia è dato dalla differenza tra il PIL e il costo del lavoro impiegato. Non ci si capisce un cazzo, economisti. Io ho fatto lettere di filosofia. Potrei estrarre un pensiero sull'esistenza umana da questa funzione se solo la capissi. No, le funzioni no. Ho sempre odiato la professoressa di matematica, dalla voce martellante, una specie di Martini alcolizzata e incazzata. Alle sue spalle dell'assemblea ha gesticolato per darmi indicazioni. Non ci ha capito un cazzo. Dove? F di L è il PIL che aumenta con l'aumentare del numero di occupati L e inoltre, supponendo che la funzione F di L sia concava, risulta che... Un cucchiaio! Ah, la funzione per far capire al mondo che la disoccupazione, una volta la crescita del paese, è un cucchiaio. Il mondo ha fame per dimostrare che esiste una funzione a cucchiaio. Ironia dell'economia. Economisti, avrei potuto fare come il commercio. Avresti dovuto fare come il commercio, o ingegneria, come tua sorella, levando sempre il senso della realtà. Ma dato un essere triste adesso, te sei simpatico e creativo, sì? Sì, mamma, sono simpatico, infatti io. Quindi! Esistono quattro possibilità. Uno, se aumenta il PIL rispetto al cucchiaio e il salario reale diminuisce o attraverso un aumento dell'inflazione con emissione di moneta da parte della banca centrale o attraverso una diminuzione del salario nominale, cresce anche il numero di occupati. Due, se aumenta il PIL in modo maggiore rispetto all'aumento del salario reale, cresce anche il numero di occupati. 3. Se aumenta il PIL e il salario reale rimane invariato, cresce anche il numero di... 4. Se diminuisce il PIL, indipendentemente dal fatto che il salario reale cresca, diminuisca o rimanga invariato, diminuisce anche il numero degli occupati. Giuro, non ci ho mai capito un cazzo. Ma quindi mi scusi, il lavoro è retribuito o no? No. Ma se mi chiude quei 10 contrattini al mese, il guadagno sarà molto buono. 10 sta a 30, 500 euro stanno a... Ma vaffanculo. Thank you. ti prego. Sì, no. Ti prego, che fai per la settimana? No, sì. Buongiorno. Nome? Cinzia. Cognome? Paoletti. Dove lo conosci? Roma, 17 maggio 79. Cosa mi sa? CNZ, PLT, 79 e... Ma che fanno? Scrive? Il recitativo, piace. Ma sì. Non è improvvisamente un usato di leggere. Grazie. Quando sono invertito, lasciato riposare la mezz'oretta. Il succo? Se non arrivava, facevo mettere rilassato. Ah, va bene, grazie. Al giorno d'oggi bisogna rafforzare la fede in Gesù. Sì. Solo nostro Signore. Sì. Solo nostro Signore ci salverà. Sì. E ci aiuterà nei momenti difficili. Sì. Nelle nostre carriere. Sì. Solo Lui può salvarci. Solo Lui, eternamente Lui. Solo Lui. Devi reagire. Devi reagire. Solo Lui. Cosa lasciamo, eh? Andiamo. Pizza in cima. Non c'è soldi in cima. Solo col mio partito se vi potrete avere più di posti di lavoro. Lavoro! Lo sai? Sono la città di prendere la disoccupazione. Eh? In particolare su pubblica lavoro, ci sarà anche poi la commissione precedente dell'articolo. Devi ricopiare il nostro numero? Sì. Ma 02. Scusi, una domanda. In ogni suo parte è firmato, ma non è dobbiamo vedere l'indirizzo. Mi scusi, ma perché lo devo stampare e compilare un po' di punto, pur? Lavoroplis.it. Signore, sta scrivendo? No, perché volevo fare un... Sì. Risarcimento, se le passi in giù. E Giuse! E se da quelli scoperti dell'opposizione. Opposizione! Oh, scusi. Mamma, tranquilla. Io sì, no, tu? No, io non mi preoccupo. No, vai. Che poi troverai lavoro e se lo darà a te. Chi lo dà? Ma chi lo dà? Poi discuterai ancora, anche per questa fissa. Devi capire, no? Sì, speriamo. Quando saprai la risposta? Mamma! No, mamma, no. Ti preoccupare, va tutto bene? Sì, va tutto bene. Sì. Se vi potete, prenderà uno in mille euro in buono in questo da spendere in un supermercato, uno in mille euro! Che? Che c'è? Che? Tu vai a sì. Ma che cazzo c'entra? Che cazzo? Ho detto cazzo. Adesso? Scusi, ma io questo modulo dove lo trovo? Signora? Un attimo. Sì. 72. Sì. Però una domanda, scusi, io questo modulo dove lo trovo? 71. Signora? Signora, non mi sente? Ma che fa? Signora? Sì. Dimmi. Allora. Sì. Tanto bello, intraprendente. Per me. Ma grazie. Potrete. Sì. Dei posti di lavoro. Lavoro! E 10 cavalli di razza. Che? Sì, mi sento per amico mio. Vabbè, io. Ma no, sì, vabbè. Belli, carina, bella. Ma sì. E la doppia, ma che ci devo fare? La doppia, sì. Mi confermo da considerarsi che sono niente per trovare una voce più da sì. Mamma, un momento che non sento. Sì. Sì, devo contare. No, non mi sono salvati! Vai! Mamma, per favore, un momento. Senti, no, una scusi. Va bene, allora, sì. Grazie mille, grazie. Mamma, per favore, sì, è un momento soltanto. Che diceva, scusi? Non ho capito. Mamma, sì, un momento. Sì, grazie. Sì, non ho capito. capito bene. Dopo mi confesso, mamma, mi fai il mal di testa. Sì, grazie. Posso fare un'altra domanda? Scusi. Sì, arrivo subito. Senta, mi scusi, posso fare un'altra domanda? Ho inviato il modulo, firmato, stampato e inviato il fax. Sono andata in un gruppo di ascolto e mi hanno ascoltata. Ho preso 2 compresse di Valium e ho anche dormito. Sono felice. Sto bene, mamma. Tutto ok. Sono andata all'ufficio del personale. Ho compilato il modulo, firmato, stampato e via fax. 10 compresse di Prozac, via orale. Sono addirittura bimbante, buone. Gli esami della vista orali, senza fax, buono. Mi mancano 5 gradi, miope e miopissima. 5 bustine di Supradin e di vitamina E, senza dimenticare il mirtillo rosso per occhi, culo e vescica. Diventerò incontinente. Non lo vorrei votare, davvero. Buono, bene. Bevo acqua, tanta acqua. Sono rinfrescata ed esco con la mia amica. Rossetto rosso. Fucsia. Troppo grande per il fucsia. Ah no, quest'anno va tantissimo. Non lo voto. Una compressa di Xanax prima, durante e dopo i pasti. Via orale, via fax, il modulo per l'IMSS. Rispondo al telefono che spilla, un colloquio? Sì, grazie. Pimpante via anale, felice via orale. Una mail, 2 mail, via tutto nel cestino. Al cesso non puoi venire con me. Invio la mail dal cesso. Cordialissimi saluti. Esco. Hai lo chatouche? Sì, lo chatouche non è la ricrescita. Hai le unghie sporche? Ma no, è il French nero. Hai i pantaloni calati? No, ho le mutande dolci e gabbana. Bene, tutto bene, mamma. Non lo voto, un voto solo, non lo dirò a nessuno. Forza, forza. Pimpante via anale, felice via orale. Grazie. Ultime esperienze lavorative, selezionare la casella e compilare nello spazio sottostante. Quella volta come cameriera, non dimostrabile. Segretaria in nero, no. Babysitter, dog sitter. Badante, no. Il nonno non lo hanno ancora rintracciato. A Cuba. Animatrice, clown alle feste per bambini. Al mio tre, tutti in fila si gioca. Si gioca, ci divertiamo e siamo felici. Tutti in fila e si gioca ora. Contratto a progetto, rinnovo ogni 3 mesi. 2004, 2005, 2006, 2007 e mezzo! 10 euro prendo il banco! A scuola 10, al liceo A, all'università 30, laurea lode! Lode a te, signore, che non ti trovo via fax! Sì, io mi pento. Mi pento delle mie tante troppe idee che mi confondono la testa. Mi pento della mia ambizione. Mi pento di quella volta che mi sono licenziata. Io mi pento di non aver ancora acquistato il biglietto della lotteria. Grande 10, 1, 2, 3, stella. Domani a 5 stelle, oggi colloquio, una volta buona, alla moda. Felice via anale, pimpante via orale. Sì, ho invertito.